rassegna stampa Europa. Cari ascoltatori, un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento settimanale con la stampa che racconta l'Europa. Europa che questa settimana, che è la settimana che dunque andiamo a concludere, ha raccontato in primo luogo le elezioni in Polonia. Elezioni in Polonia che hanno creato uno scenario per certi versi nuovi, oppure antico se vogliamo vederlo da un'altra prospettiva, nel senso che per la prima volta dopo la fine del comunismo di fatto in Polonia c'è un partito unico che costituisce il governo, che si assicura la maggioranza dei deputati e che dunque entra con una posizione di grande forza sullo scenario internazionale. Allora cominciamo dalle reazioni a questo voto e partiamo subito da un titolo molto esplicito, è Libération, dunque quotidiano della sinistra francese. Il titolo è La Pologne, fille ingrate de l'Europe, dunque la Polonia figlia ingrata dell'Europa addirittura. Perché la Polonia viene trattata alla stregua di figlia ingrate? Dunque il testo ci racconta: prendete un sesto delle promesse sociali, poi ci mettete un pezzo e una dose di xenofobia, aggiungete qualche assaggio, qualche punta di tradizione conservatrice cattolica, ecco che avete i conservatori al potere da oggi in Polonia, da oggi naturalmente, dall'inizio della settimana. Questa vittoria alle legislative in Polonia era attesa, prosegue l'articolo di Libération, quando era attesa, dice, almeno da maggio, quando il presidente, il candidato del partito conservatore Andrzej Duda, un quarantenne quasi sconosciuto, aveva vinto la corsa per le presidenziali. Ma quello che emerge è che questa vittoria è ancora più netta di quello che potevano prevedere i sondaggi. Che appunto davano certo la vittoria, ma non una vittoria così schiacciante. Ecco perché dunque quel titolo figlia ingrata? Perché sostanzialmente quello che afferma il quotidiano francese è che questa Polonia, che tanto ha avuto negli ultimi anni dall'Unione Europea, che ne ha fatto uno dei pilastri, il pilastro orientale, per molti anche una vera e propria sentinella orientale del sistema, bene, favorisce un partito con una spiccata attitudine e atteggiamento anti-europeo. Se la buona salute dell'economia polacca non ha favorito in alcun modo il team uscente, quindi i partiti di centrosinistra filo europeo, e anche perché il dinamismo che si vede a Varsavia maschera da sempre delle disparità regionali e salariali molto forti. Ad alcune centinaia di chilometri dalle torri rutilanti della capitale, delle regioni intere, regioni agricole o minerarie, soffrono la disoccupazione, che è pure in riduzione ma è sempre molto molto alta. Insomma, questo è un po' il refrain, insomma, una maggioranza di centrosinistra che ha lavorato molto sulla parte più visibile del paese e non altrettanto invece su quella che poi ovviamente porta e definisce i voti. Ancora un passaggio di questo articolo d'apertura che dice: i polacchi ne hanno davvero abbastanza dell'Europa, e scrive: in questo paese molto cattolico e tradizionalista, spiegano i politologi, la nuova sinistra appare troppo europeanizzata, cioè una sinistra moderna della capitale che guarda troppo appunto verso Bruxelles e non abbastanza verso il paese stesso, tant'è da fare affermare a molti che oggi i polacchi ne hanno abbastanza dell'Europa. Una situazione apparentemente per certi versi paradossale in uno dei paesi che ha meglio approfittato, e davvero nel senso migliore del termine, del grande cambiamento che ha prodotto l'ingresso nell'Unione Europea. E non dimentichiamo che, come abbiamo detto, è uno dei veri e propri pilastri, il presidente Tusk, come dire, nella sua funzione, un tempo era primo ministro, adesso è presidente del Consiglio d'Europa, è anche emblematico dell'importanza del paese nell'Unione. Ecco, dicevo, la Polonia è anche il paese che non fa parte dell'area euro, ha una moneta che permette di avere un costo del lavoro molto interessante per le industrie straniere, eppure tutto questo a quanto pare non basta a creare una, come dire, un'affezione, una cultura pro-Europa. Il voto in Polonia è il peso della storia, scrive Sergio Romano. La vittoria nelle ultime elezioni polacche di Diritto e Giustizia al partito dei gemelli Kaczynski piacerà, dice, a tutti gli esponenti del nuovo nazional-provincialismo europeo. E li cita da Nigel Farage in Gran Bretagna, Marine Le Pen in Francia. Il risultato del voto e il possibile ritorno al potere di Jaroslaw, il gemello sopravvissuto dopo il disastro di Smolensk, sembrano dimostrare che il nazionalismo, il populismo, l'euroscetticismo sono ormai i soli caratteri veramente comuni della grande Europa, da Dover, quindi dalle famose scogliere bianche dell'Inghilterra del Sud, al Pireo. Ecco, questo è l'attacco nell'articolo di Sergio Romano, quindi un uomo di grande esperienza diplomatica e giornalistica, e che, come dire, va notato. Sembra che oggi appunto populismo e euroscetticismo siano ormai i caratteri correnti e condivisi dell'Europa. La citazione, peraltro, al possibile ritorno al potere di Jaroslaw ricorda quello che è stato uno dei momenti più drammatici della storia recente della Polonia, quando appunto un aereo sui cieli russi venne precipitò, stavo per fare, come dire, una sorta di lapsus, stavo per dire effettivamente fu abbattuto, perché nonostante si parli da sempre di un incidente aereo, ecco, il fatto che sia accaduto nel cielo della Russia ha provocato in Polonia anche un sentimento, ha rafforzato quello che è uno storico sentimento di diffidenza nei confronti dei grandi vicini russi. Staremo a vedere, di certo la situazione, il rapporto a est tra la Polonia e la Russia ha delle grandi implicazioni anche per quello che riguarda la situazione in Ucraina. La destra anti-UE vince le elezioni in Polonia, boom dei nazionalisti, hanno la maggioranza assoluta e potranno governare da soli. Questo è un altro fatto davvero impressionante. Dopo la fine quindi del blocco comunista, la Polonia che si riprende, si ricostituisce e è libero. Non era mai accaduto che un governo potesse essere creato di fatto da un unico partito. Questo è, direi, il tema della settimana. Poi alcuni flash nei tre minuti che ci rimangono. Vi segnalo Sky, quindi Grecia, un articolo che riguarda il sostegno da parte della Germania. Sky dunque che spiega come la Germania si sia impegnata a sostenere e a favorire economicamente il ruolo della Grecia nella grande storia drammatica delle migrazioni nelle isole. Ma c'è anche HRT Croazia, dunque una radio che fa parte della network, della rete di Euronet Plus, che racconta per prima una storia che poi ha fatto il giro del mondo, quello di una signora, si chiama Bibi Kal, forse l'avrete vista nelle fotografie della settimana, una signora di 105 anni che è partita come tanti altri, in mezzo a tanti altri, ma certo ultracentenaria, dalla Siria per raggiungere quella che lei stessa ha definito la terra promessa. La sua terra promessa è la Svezia, dunque la Svezia, dove risiedono da anni i figli, un figlio e alcuni suoi parenti. Davvero un'immagine impressionante di questo grande viaggio. Ancora nelle segnalazioni, così in breve, la radio nazionale polacca invece dà ampio spazio alla posizione del presidente della Repubblica Ceca e dice: nonostante la Repubblica Ceca e nemmeno i vicini della Slovacchia siano in questa fase direttamente colpite dal massiccio movimento dei profughi, il presidente ceco Miloš Zeman ha usato delle parole durissime nei confronti dei rifugiati, appunto ai microfoni di Radio Polski. Polski Radio è un'altra delle emittenti che fa parte del network di Euronet Plus. Miloš Zeman ha affermato che alcuni migranti utilizzano i bambini come scudi umani per attraversare di fatto le frontiere illegalmente e che questi non meritano da parte della sua gente, da lui in particolare, nessuna forma di simpatia. In un articolo si racconta dunque come il presidente polacco Szeman sostenga che in questi grandi flussi di migrazione la presenza così alta dei bambini sia anche in parte una sorta di strumento utilizzato dai profughi per raggiungere i paesi dell'Europa occidentale. Infine una segnalazione davvero flash dal Belgio, RTBF parla di Herman Van Rompuy. Herman Van Rompuy è un politico di lungo corso di quel paese, già presidente del Consiglio europeo, che racconta in un articolo come egli ritenga che in questa fase di crisi e di continuata crisi umanitaria Angela Merkel abbia dimostrato da lungo di essere, da molto tempo ormai, di essere sostanzialmente una figura centrale non solo per il peso economico del suo paese, del paese che governa e rappresenta, ma perché ha dato il senso di quell'umanità cui l'Europa intera dovrebbe ispirarsi, naturalmente con riferimento alle decisioni assunte dalla cancelliera Merkel nei momenti più alti della crisi lungo le frontiere, in particolare tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, naturalmente Ungheria e sulla rotta balcanica. Bene, con questo direi che è tutto per questa nostra carrellata del sabato mattina. Vi lascio agli altri appuntamenti di Radio 24. Da Gigi Donelle un saluto e un ottimo fine settimana. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.